Come ti penso di Cristo? Ma sono sempre più semplici di quelli che sono usciti adesso. Stiamo parlando di FT 3000, di C7003. Quelli lì, se te lo metto in mano a te, non riesci manco a uscire in radio. E si ughe, mughi su di voi. Stanno marobiglio, te lo dico. È così, Tore, c'ha ragione la Tarina, è così. Non è così come state dicendo. Uno non impara a chi. Basta leggere. Ascolta, qua è uno piccolino piccolino. Neo. Vieni a regolarmi, a mettermi dove vanno i punti e se riesci a farli funzionare. Aiù, ed è un altro apparato di un'altra frequenza. È piccolino piccolino, però tu devi riuscire a farmelo funzionare. Ma dove vuoi andare? I punti mi devi far funzionare. Se vuoi funzionare i punti, ce li ho mi come coso. Ti voglio vedere. Capito? E lo dico che non vi ridisci. Ti porto il mio. Se ci va. E ti cerco i punti. No, va a funzionare. Però devi sempre trattare per un computer, mi, se no non fai nulla un ghiccio. Andave. Dimmi dove devo andare e io ti porto. Anche seduto. Fai così, guarda la tua brillante carriera. Capito, Tony? Ha detto che è andato a filarsi a Fainì. Forse è meglio. Manuel, li posso vedere un apparecchio che tu col cacchio ci riesci, a parte vuoi attaccare dal computer, no, ma poterlo programmare, a chi se no non vi ridisci Edu, a farlo funzionare, non bisogna correrci due io. Ma già lo so, Lattari, lo so, ci sono apparecchi che lo devi collegare al computer, e non sa neanche dove metterci le mani. Difendi lo sfavaldo, Dore, ma non è così. Non sto facendo lo sfavaldo io. Io non ci sono buono a fare lo sfavaldo. Agati, io sto dicendo che al computer qualcosa ti farò. Guarda, io ho visto come si fa e tutto. Però non è semplice. Tu mi puoi saper trattare un Waffeng, chi si puoi saper trattare. Ma no, chi su che ti so di servire. Nessuno è nato imparato, mi Natalino. Se da voi vedo a programmarlo dal computer, te lo programmo dal computer. Ah, allora vedi che mi riprogrammi, mi poni tutto quanto. Andate, te lo programmo e ti metto quello che vuoi. Come faccio io nel mio computer? Fermo di così. Se vuoi qualche nuvola nera, vuol dire che da Natalino. Entro subito. Le nuvole nere si trovano soltanto con il fuoco, se devi arrostire. Così mi. Tu arrostire devi adesso. Ah, Manuel. Dimmi tu. Se devi arrostire. Arrostire arrostisco domani, non oggi. Anche io mi. Domani facciamo fumo. In disinterno di Rubiago, vai Rubiago di Garri. Ci stai arrostendo un po' di fumo nero all'inizio, esce. Non esce fumo nero, fumo grigio sì, fumo nero non esce, che attacchi con senso con Bruxelles, capo con Macchioni. Ma la caro cantatore, caro cantatore, domani avremo fumo. Andiamo. Peccare, avanti, buonasera. Ciao, sempre io. Dai, buonasera. Salute a tutti, dai. Niente, scusa, Natale, installo 10 metri radio. Sto uscendo. È molto complicato, lo so. E infatti adesso io quello do via, che non snaggio le balle bene. Esatto. Ti hanno soprammodulato, non sei passato neanche un pochettino. Sono piccolino io. Ho detto che quello che ho, il 10 metri radio che c'aveva Natalino una volta, è molto complicato. Infatti non ho mai compreso nulla, se la biglia luci, c'ho la scatola delle spiegazioni, però no, basta, lo do via, boh. Dalla a me, che mi so così scendi uno. Ci mettiamo d'accordo. Anda bene, Meda. Tu lo sai quanto l'ho pagato io a quello lì. E gliel'ho dato io a quello lì dove l'hai preso tu. Non lo so quanto te l'abbia dato lui. Io vi raggio da Dio. E mi ne dovevi usare le mani. A chi avrò so così scendi io, a chi fanno abrigo. So tutto quanto perché mi ha telefonato e me l'ha detto. Niente, da me ha avuto 150 la te, e glielo date subito. Perché la verità mi piace. Però è un casino, è troppo complicato. Perché è un casino, Tony? Perché deve entrare nel menù, non è così facile. Da Tallino lo conosce perché ce l'aveva lui. Io non ne comprendo nulla. Deve entrare nel menù e mettere agio compreso, come quello che ho io, che deve entrare nel menù. È come il 706, che qualsiasi cosa che devi fare devi entrare sempre nel menù, sempre. Poi Natalì non so se tu gliel'hai dato lo stesso prezzo che l'ho comprato io, lui mi ha detto così, poi non lo so. Hai compreso Natalì? Io già ho compreso, e tu chi non hai compreso? Già è un anno io ho compreso. E te lo gioco dei zendi? È così, e anche quello che ho io deve entrare nel menù mio, Natalì. Hai capito? Ma quelli sono semplici per me. Quello che vuole prendere Tonino, glielo sto dicendo che è molto complicato, non è come quello che è a lui. Quello che vuol prendere Tonino va a un casino di roba da va. Vabbè, cacca. Cosa si può pigliare? Oh, lo gozo, io. E il 3000 vuole prendere, quelli non, sono più complicati pure dell'ICOM, figurati. Vabbè dai, vi lascio che devo fare una telefonata, mi dovete scusare, riprendo dopo. D'accordo, saccolomi. Tony, quello è un sacco complicato, è parecchio complicato quello lì, da io l'ho visto da un amico, l'ho visto, giù a Porto Torres. Ma fatta cosa, deve entrare dentro il menu, cercare e poi deve essere anche con il computer. Vabbè. Dai, io devo fare una cosa qua, una questione veloce. Datemi 5 minuti, io vado in macchina, mi sono dimenticato un cavetto lì e me lo porto qua. Mi vedi, Manuè? Ma dimmi una cosa, è il Lincoln 06, 706, non ti piace? Lì, e qual è? Quadribanda, Ma stazione fissa sempre. Ma me ce l'avevo io, Tony. Ah, quello piccolo? Sì, quello verde, però non l'altro. No, non mi piace piccolino a me, piace la roba grande a me. Te ne vai nuda la roba manna, non te ne vai nuda. Perché con la roba grande c'ha soltanto quelle frequenze, boh, invece quello che c'ho io, quadribanda vai dove vuoi. Ma è piccolino, a me la piccolina non mi piace, a me piace l'estetica, mi piace la bellezza, mi piace vederlo, capito? A me roba minore, pare un baracococa, nasce un baracchino minore della soddisfatica, ne mi va chiuso lo 23, boh. Ma non è come te dice che va giù, che va tutto canto, va. Però Manuel, cos'è no che stiamo parlando, cos'è, no? Ho seguito l'argomento. Il quadribanda c'ha tutto, c'ha anche 30 metri. Avanti, avanti, vieni. Andiamo, andiamo, cata. Io ti consiglio se può andare. Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, catatore. E tira giù di tu. E tira giù di tu e boh. Buonasera, se mi sentite sempre. Ah bomba, ciao Lu. Anda bene, dai. Quel cuocuoma è Natalino, sempre cuocuoma ne sì. O ti sei disintossicato da per Pasqua e Pasquetta? E vai tu, drogato, cosa ti credi? Non ti ho visto sotto il ponte con il cacciavite in mano? Sì. Niente, non ti ho visto, ah, allora lo spiego con la moletta dentro il giubbotto, ah, non ti ho visto, ti ho fatto una foto. E c'era chi Marone con la pompetta in mano, stava pompando. Ah, l'ho visto lì, all'evo spigo, l'ho portato giù un botto a Natalino, eh? Tra cui venne per prenderti la, la bamba, eh? Con comune. Vai, Tussico. Come tu mi sai? Lui uso, qui. Bubu. Oh, dai, che devo prendere un po' dalla macchina, che mi dimentico sempre, qua. Vuole X un attimino. Adesso lo dico a mia moglie, lo dico cosa tu mi hai detto, mi, Luca Pugioni, eh? Non parli adesso, bello bello. Adesso si è offeso. Avete dato a domani. E se se la piglia sempre con me questo Luca Pugioni? Adesso dico anche il numero di telefono, mi. Alla? Ti faccio mangiare il brodino di mammo stanotte. A te di maggioreggi, Manuè. Cata, prima mi attacca da voi non fa vita. E la seta che già ripiglia. È tutto qui paridore, la posta in soggezione a Luca. Guarda qui fammi da. Cata. Ma io non piace mi ripati raghi raghi. Ah, ma cosa tu i trinti dai? Appena appena sì. Cata, ma che c'è là che non piace? Ma ti immagineggi, ma non è pure che sudore la commigura. No, cata, no, tagli, cata. Cosa ti devo dire? Ah, Tore, un interrogativo. Dimmi, dimmi. Te lo disendi, ma informato tiri per gli esami? Sì, ho chiamato la signora e mi ha riconosciuto e mi ha detto che gli esami sono a novembre. Sono a novembre e sono a Cagliari. Sono, però se qualcuno fa la domanda prima glielo fanno fare anche online, mi ha detto. La domanda prima? Sì. La domanda se la fai prima, prima di settembre, se la fa fare anche online, si mette d'accordo e ti fa chiamare e la potresti fare anche online. Ah, io a Cagliari non ve va, no, non ne faccio io, no. Se la vuoi fare te la fanno fare anche online, mi ha detto. Lo so, ma non ne faccio, mi sono rotto le scatole. Volevo solo sapere la situazione. Però ho parlato con un'altra persona io del fatto tuo. Mi ha detto che cosa è che devi lasciar passare 5 anni. Però mi ha detto che sotto sotto, se lui vuole, ti può far passare. Sotto sotto, però. Vabbè, sotto sotto, non è vostro, è fatto prima. Non voglio fare, voglio continuare. Vai a fare l'esame. Nessuno. Sì, sì, domani. Presto, me ne alzo, vado e... Prima o poi dovrei passare, Natalie. Buonasera a tutti. Vai, Tore. No, ma deve lasciar passare 5 anni per quello che ha avuto lui. Devono passare 5 anni. Però se conosce la persona giusta, lo può far passare tranquillamente. Sì, qui Natalino vedo che è abbastanza appassionato di apparati. Buonasera a tutti, ho sceso adesso, non so che ci sia, premetto. Natalino è abbastanza appassionato di apparati, di tutto, già ne tratta, diciamo. Se la memoria è buona per ricordare le normative, tutta la matematica, l'elettronica, non credo che ci siano problemi. Cioè, prima o poi andrà a segno l'esame. K, vai Natalì. No, ma non ne ho intenzione, mi sono disgustato, capito? Non ho intenzione di fare più nulla. Mi farò i miei riexi in estate, adesso mi busco un apparato come si deve e basta. Boh, vedi tu, dai, però se hai la passione ti si apre un mondo e una volta che c'è la patente puoi fare cose che qua manco ti sogni, tanti tipi di attività e non solo parlare, fonia, satellite, di tutto puoi fare a talì. Lo so, ma io non me la volevo prendere per fare attività, perché intanto non ne posso fare. Dove me le metto le antenne? Me le attacco al di dietro? No, io volevo la patente per una mia soddisfazione. Ho preso cose più difficili alla prima, figurati questi stronzi, mi hanno bocciato 3 volte, ma vai ammazzati, no, non ci vado più, è una mafia, capito? Cazzo, sono di patente, c'avevo la D io, pubblica, non so se mi sbaglio, ed è più difficile di prendere la patente radioamatoriale, c'ho il porto d'armi, non me ne sbatte un cazzo, ho studiato per prendermi quello da caccia e me l'ho preso alla prima, senza né incontri da nessuno, perché io non conosco nessuno, e a me la cosa mi piace prenderla legalmente, capito? Non con i costi, perché se la voglio la patente vado, me la compro e faccio prima. No, ma devo spilla stavo vendendo. Ciao Marco lì. Tu non sai nulla Luca, puttidini, ma se avevi una... Con i soldi si può tutto. E se lo sono andati, è brutto comprarsi delle cose, è meglio studiarsene, capito? È quello. È meglio studiarsene, adesso tu l'hai detto in radio, cioè sei gattagliente da ora registrato. Meglio non dire niente in radio, Natalia. Se la vuoi dire, magari dice una persona in privato. Perché la gente è cattiva adesso. E no, la gente sta andando peggiorando. Natalino. Già lo so, non le volevo dire, è per fare capire a quell'amico mio come erano. No, mi sono sbilanciato un bel. A proposito di fidanzamento, ma infatti mi buscherò uno di quegli apparecchi per andare in banda laterale e mi vendo tutto, perché questa roba non la tengo più. Ho perso anche la passione di ascoltare, prima ascoltavo bene, cazzo, mi piaceva, però mi hanno disgustato. Chi è che mi chiamava? Forse era Tonino. E K, sto usando quell'apparato là, quello a 10 metri, com'è? Già va bene, è un po' la radio così c'ha. Ma... Natali, ma quello sto più ascoltando, ci credi? Se poi aspetto, ne ho 2 portatili. Non sto più ascoltando, ma per me, anche a me basta la voglia di ascoltare anche. E non è per quello che non ne voglio fare, mi sono disgustato, capito? Anche io so che questo non c'è. E guarda che l'ultima volta io ho studiato da matti, mi c'è Tore qua che te lo può dire. Fatti dire se ne sapevo, da Tore, va. Ero il primo del corso. Ecco, sono tornato io. Comunque Natali non dire un cazzo. La gente è cattiva, capito? Molto cattiva. Meno le dice meglio è. Lui ha cattività, che si male che vai in giro, ti faccio la faccia vedere, poi ti fai la legge, ti bastardi, ragazzi. Ma c'è quello di su, mi, o poi ti punge. Ci siete sopramodulati. E con chi? Meglio così, almeno non mi hanno sentito. Natalino, tu sei inteso mannuda. Si sentiva un pochettino Luca e buh. Si sente sopra la modulata, non con l'altro. Non vi comprendete né uno né l'altro. Avanti Luca. Sto dicendo Natalino, che conviene, non conviene dire niente. Capito? Troppa siete cattiva, troppa, anche qua. E molti ascoltoni. Non bisogna fidarsi di nessuno, no, Natali? Vero. Tonino, mi copi? Era lui? Certo, io. Ehi, Tonino, che apparato stai provando? Il 10 meter famoso? No, l'ho staccato, adesso sto usando il solito. Come radio anche diversa, dai. Figa. Sì, perché a Natalino piaceva quell'apparato, io ce l'ho marcato Intec, che ha l'illuminazione del display anche migliore di colore, però io non lo do quell'apparecchio, a me serve, per quanto ne abbia vari, ma cioè, l'ho preso per tenerlo, capito? Però puoi fare un sacco di cose, anche col computer, ti puoi fare i canali come vuoi tu, li puoi mettere i canali inglesi, la banda CIMI in inglese, ci puoi mettere per ascoltare la banda naturale con lo 0 finale anziché col 5, no, tipico. Vabbè, a me non piace la verità, troppo complicato, a me le cose complicate mi rompono. Infatti con Natalino stiamo parlando, tutti mettiamo d'accordo, perché io lo voglio dare via. Ehi, E poi quelle opzioni si usano un po' come tu le regoli una volta, le lasci a vita, quelle del menu, tutto il resto poi le fa dalla manopola e da tastini. Sì, il Natalino è appassionato di quell'apparecchio e quindi gli piaceva. Io l'avevo programmato al computer e così dai, ti puoi personalizzare i canali, poi gli avevo messo 60 canali per banda anziché 40 e quindi ti aumentava anche il numero di canali, capito? Moltiplicato tutte le bande, praticamente faceva dai 25 ai 30 mi pare, o 30 ai 100, un macello di canali. E c'ha 6 bande, fate conto, dalla A alla F, a voglia, che da canali. Sì, comunque anch'io sono più per gli apparecchi di una volta, magari non dico quelli proprio di 40 anni fa, ma il Superstar 3006, 3009, quelli sono semplici da usare, affidabili e tutto. Torre, riprendi. Infatti, quello è tutto da programmare, so quanto. Chi lo sa fare è buono, ma non lo sa fare, no, è molto difficile. Purtroppo. Beh, quelli di una volta, non di una volta, ma quelli recenti, 3006, 3007 e quegli altri, ecco, quelli lì andrebbero bene. Capito Natali, da tutti i varati di Gio. Tonino! Prima risolviamo Giuretti. Io mi ricordo negli anni 80 quando parlavano tutti assieme, uno che riprendeva dopo diceva parlate un guasto per volta. Che bella, aspetta che la bagniamo. Oioioioi, certo poi già ne ha uno è separato, già ma l'altro è separato, ma tutta la sintesi ci sono. Chi è che c'è rimasto? Uno, due, tre, boh. Ah, riprendo io, riprendo tutto io. Gabibbo, attenda che d'altro, andiamo. Oh, boh. Oh, Luca, ci sei? Ci sono, riprendi tutto lì. Separato, ha detto che è separato. Riprendo io, riprendi 5. Riprendete voi che mi sto a sentare che mi sto mangiando un pezzo di pizzetta, dai. Corari, do la pizza che si mangia, un pizzino, mi ha da te. Parato, mi. Parlate uno per volta, cazzo. Avanti, Natalino, cosa state dicendo? Questo qui che sto usando adesso, il Superstar 3009. Certamente. E te lo appoggio Natalino, confermo. Ce l'ho anche io, è un signor apparato, bello, bello, bello, bello. È che non c'è lo scippatore dietro, non fa niente, da, fa solo le rapine. Cos'è che non c'è? Di scippatore? No, no, è ladro. Lo scippatore si chiama, scippatore. Non ce lo faccio lì. Natalino mi ha detto si chiama così, vero Natalino? Si chiama scippatore. Lo scippatore si chiama. Un pezzo a voi. No, 2009 è veramente una signora radio. E soprattutto i componenti classici, no SMD no. Non ne spendo più sul, ma anzi mi vendo tutto. Tanto c'è un po' di gente che a me me la piglia subito la roba, me la vendo il continente come ha fatto quell'amico mio e qui non do nulla. Potrei parlare con Maria? Così so, tranquillo, mi tengo qui su solo e buh. Va bene. Che dove sei va a me, avrai Natali? Che ci ho visto io. Quello che stavo usando poco fa. Non lo so se è quello che stavi usando poco fa, quello che ho visto io. Boh, non lo so se hai visto tu. Vabbè là. Io ne ho due di quelli lì. Uno tipo quello che hai tu, più grande. E l'altro. E quello che è grande, quello se me lo voglio me lo dà. No, ho detto che li vendo il continente, qua non me li pagano. Che te li vendi il continente? Infatti i continenti meglio li pagano. No, il continente fa a contro la bamba, vero Natali? Allora, una partita di bamba. E vabbè, siamo così. Adesso è bamba, attore. Già? Te ne serve bamba per le stazionarie? No, no, no, no. Ce le ho giuste e vanno benissimo. C'è questa bamba che si mette sull'antenna e ti fa scendere stazionarie per un mese. Andate. Ma preferisco regalarla la roba, capito? Perché intanto non te ne pagano qua. C'ho solo l'accordatore che c'ho io, al tanto costa 225 euro, solo l'accogliatore. Figurati. L'altro ce l'ha interno, l'accordatore. Adesso come me lo portano revisionato, li spedisco in continente tutte e due. E così mi ripareggio e sono più tranquillo io e tutto. Tanto è quasi pronto l'altro. Ehi, ehi, ehi, così, fermo così, fermo. Voglio modulare tanto mi. O sul 10 o sul 23 siamo, quindi mi lascio questo qui e boh. Che è omologato, poi c'ho un altro 23 canali, ne ho un altro omologato. Però se tu hai bisogno. Figuriamoci. Capito. Ho regalato apparati io, altro che quel 10 meter che stava dicendo, l'anitone è quello lì. Ne ho regalato due di quelli belli amprosimi. Marco sa a cosa mi riferisco. Sì, praticamente il 6009 sarebbe Mittore, scritto il 6009, però c'ha gli spray rosso. Però non c'è più. 5555, 45 c'ha. Sì che ci sono, dimmi, dimmi. No, che Natalino diceva che l'apparato con l'anitone praticamente sarebbe il CRT 6009, però col display rosso. Arancione è il display, non è rosso. Sì, vabbè, quel colore lì, dai. Scappa, molto bello a me apparecchio quello lì. Quello l'ho venduto, l'avevo venduto a Antonello, e Antonello l'ha dato a Tonino. Ehi Natali, però non essere pessimista per quella storia lì, cioè già lo so, però radio meglio, capito? E intanto, più di quello che mi hanno sputtanato. Ehi vabbè dai, insomma, però un tentativo si può fare ulteriore. Cappa, io sto usando il 7009 adesso Natali, tutto a posto, sì. Yes. Io ho tutto sistemato, meno male. Tu parli bene Marco, ti sto dicendo che io ho studiato come un matto e ne sapevo un me. Mi dilla Tore, c'è Tore qua che te lo può dire. Ma io ci credo, io lo so, io non ti ho detto il contrario. È che se lì davvero, se c'è veramente questa volontà di non farti passare, le mafie vero, però meglio, capito? La casta, hai presente la casta degli eletti? Tony, la pizza pronta è. No, adesso devo chiamare e ordinarla per le 9. Comunque Natali, come ce l'avevi tu e come ce l'ho con la persona, adesso ce l'ho io, ti posso dire che è perfetto, non c'è un graffio, io tengo bene la roba. Tutto nel mobile, grazie a Dio, non ne manca nulla. È perfetto, va bene dai, che devo telefonare per la pizza con i calamari per oggi. Io ho già telefonato poco fa. Comunque Natali, due buoni d'accordo, se buoni d'accordo non è problema. No, ci ho ripensato Tony, no, spendo più manco 5 lire, anzi non solo. Telefono a quella persona che conosco io in continente e me li piglia subito. Adesso come rientra quello là, sto partendo. Anzi, considerali già partiti. A me mi arrivi in Irina e so go a Puglia. Non me ne sbatte nulla. Più. Qualche chiacchierata qua mi farò, mi se ne ho voglia pure, se non mi vendo pure anche il baracchino. Mi hanno, guarda, cosa ti posso dire? È disgustato. E infatti no, quelli lì perché li voglio dare, per quel motivo lì, perché non sto manco ascoltando, quindi non li uso, per tenerli sempre spenti. No, ma io ripeto, non te lo sto vendendo, detto, possiamo scambiare, a me i soldi non mi interessano, io ne ho di dinaro, non è per vantarmi, ma non me ne fotti inutile di dinaro, Natalia. Possiamo, detto, parlarne, ma non per soldi, giustamente. Poi te dico. È inutile, no, qua. Mi piaceva un apparato, ma non me ne hanno voluto dare, quindi non insisto. Mi sono disgustato di tutto e di tutti, la verità è. Tra un po' se non mi sentite lo sapete che sono disgustato e non ne ho voglia. Io tiro una cosa, sinceramente, non sto entrando tutti i giorni, perché ho sempre da fare, ripeto. Qualche 5 minuti voglio dedicare agli amici, entro un po' al baracchino e basta, però non lo elimino assolutamente, perché il baracchino è sempre, diciamo, un piccolo passatempo che a me fa piacere, però non posso dedicarli più di tanto ogni giorno assolutamente, perché ho troppa cosa da fare. Va bene, Marcolino li prendi. Sì, ma Natalia, adesso prima lo vuoi l'apparato, da tanto che lo dici questo non entro più, vuol dire che oggi è una giornata un po' così giù, magari si paranoia per le festività, come lo sono io, devo incontrare i parenti, quindi figurati di che umore posso essere, già passa, niente, ci vuole un antidepressivo per Natalino. No, non è questione di antidepressivo, è che per altre cose, capito, che mi sono successe anche, a me il baracchino mi ha dato guai solo e basta. Ehi, non è che guai ti ha dato il baracchino, per quel controllo lì, ma quello è di routine, futebine. Eia. Vabbè Tony, chiamato hai? No, adesso chiamo. Un attimo la smaniata, pensavo con le gappe e l'ho messo. Ma ciao mi. Certo che andiamo, bubu. Oppure la morito. No, io me la già ordinata là. Non vedo besso. L'avevo andata a pigliare da bui. Io la gioia finendo, mi la smaniato un metro, mi la smaniato. Esagerato che sì, certo un metro. Ma sai cosa vuol dire un metro? Basta che ci sia la voglia di mangiare. Troppo grande. Per il mio pancino già ci sta, dai. Già da te. Io ne mangio un giorno una minoretta e mandare. Una piccola non mi basta, va Marco lì. Si deve darsi assentato. Vabbè. Scusate, sono in cucina, sto facendo il caffè, bianco per me, riprendete pure. Sì, ok. Luca, ci sei? Andate a mangiarsi la pizza e dopo. Andate. Avanti, Natalì. Dai, io rimango in quel Rix che subito arrivano le pizze e dopo c'è un impegno, là. Sì, ok, Natalì. Ci risentiamo. Andate. Anzi, adesso mi allontano anche io. Ci risentiamo dopo. Tutto ordinato, tutto a posto. E ci risentiamo dopo, Tony. Ok, va bene, Bocco Rix. Chi c'è rimasto qua? Beh, io ho abbassato il lume per parlare con la pizzeria. Cosa è successo? Dove vi riuscivo? Marco lì, Natalino, Manuele, tutti spariti. Bubu, dai da. Sono incazzati che fa male. Bubu. Luca. Dimmi, Tony, mi sto avvertendo che sta andando. Che vediamo, questa è la macchina. In questi giorni. Come si dice? Stavo per andare a prenderli, capito? Se vuoi scendere lì, non so cosa per la nieta. Niente, io ho abbassato il lume, stavo chiamando la pizzeria e poi niente. Sono entrato per benissimo. Te la portano a casa la pizza? Eh? Te la portano a casa? No, vado io a prendere verso le 9, l'ho ordinata per quell'ora che viene Monica. Ma a Sassari? Ma a Sassari tu la stai prendendo a Sorso? Cosa, Luffy? La stai prendendo a Sassari o a Sorso? No, a Sassari, che sta sorso? Pizzicotto 2. Siamo inviati che si abitati un magnata. Se la mangi lì sì che è buona. Ma da sport non mi piazzi. Se la è buona, provala, al massa, lì al chilometro. Cazzo, anche io buona avere la pizza, Buona, buona, buona. Io pizzeria ne conosco poche buone, da Carlo a Bancali, Piazza Sardo, Rocaia, a Valeduria. Sono poche le pizzerie che ci vado io personalmente, capito? Mangiamola sul posto. Vabbè, mi ha provato lì il pizzicotto, a Monica le piace, ok, prendiamola lì, cosa dica. No, ci mancherebbe, Tony, no, se vuoi tenuta, però lì è buona, lo sto dicendo, lì è buona. Il pizzicotto l'ho mangiato e faccio ma schifo, se lo posso garantire, a me non mi piace. Forse male del giorno, oppure c'era un pizzaiolo che non lo sapevo fare, cosa adesso. C'era qualcosa che non andava, di sicuro. Vabbè, comunque. Si piace a Edda, va bene, se la prende come te è fatta, no? Via, via, va bene. Cavolo, non c'è nessuno, Ginko, oggi sì. Tutti scomparsi sono. Vabbè, dai, che io mi allontano un pochettino. No, ci sentiamo, Luca. Buon fine serata, ci sentiamo domani per gli auguri, Attacchio sta qui, ciao Tony. Ciao, ciao.